notte cammina per ogni umana sorte. Ecco già mi avvicino all'ora della morte, e forse pria che l'ultima mia strofe sia finita, ma non sarà il carnefice la fine della vita. Go ahead.